Spezia. Mafia Capitale, trovato il libro mastro delle tangenti a politici e burocrati, gli affari della criminalità anche nella gestione dei campi Rom. Commissariato il Partito Democratico di Roma, il prefetto Pecoraro riflette su quello per l'intero comune, presto un incontro con il ministro Alfano. L'assassinio del bambino in provincia di Ragusa, dubbi sulla madre, la scientifica torna sul luogo del ritrovamento, si studiano le immagini di 42 telecamere. Mercati e governi europei in attesa della banca centrale, oggi potrebbe varare un piano d'acquisto di titoli di Stato per contrastare la deflazione. Strinse il braccio intorno al collo di un nero e lo uccise, assolto un poliziotto a New York, monta la rabbia, ma ieri protesta pacifica sulle strade. Arriva il freddo per il fine settimana dell'Immacolata, le stazioni sciistiche e gli albergatori sperano in un po' di neve, intanto fanno offerte su.